Letture di Radio 24. Mentre noi, quando andiamo all'estero, tendiamo a comportarci meglio di come facciamo nel nostro paese, gli stranieri e gli immigrati, quando vengono in Italia, hanno invece la sensazione di poter sempre fare quello che vogliono. Scrive Aldo Cazzullo in un editoriale pubblicato sul Magazine 7. In un film degli anni 80, Eddie Murphy veniva accusato di aver rubato una casa e si difendeva gridando: «Come diavolo si fa a rubare una casa?» Ecco, Eddie Murphy non prevedeva che nell'Italia del secondo decennio del XXI secolo sarebbe stato possibile rubare una casa. Forse non ci sarebbe arrivato neppure Ionesco, il padre del teatro dell'assurdo. Se la casa è mia, non posso trovare in casa un'altra famiglia che non ha comprato la casa, non l'ha presa in affitto, non se l'è fatta assegnare dagli organi competenti. Si è rivolta a un racket che le ha trovato una sistemazione a danno dei legittimi proprietari. Ma oggi il Comune di Milano e lo Stato italiano non danno ai legittimi proprietari gli strumenti per far valere i loro diritti e stroncare sul nascere questo fenomeno incredibile, figlio dell'incertezza del diritto e dell'impunità del male. Per cui i soliti sfratti immediatamente esecutivi sono quelli che il racket delle occupazioni effettua a danno dei piccoli risparmiatori e degli assegnatari delle case popolari. Il problema è che in Italia chiunque, a cominciare dagli stranieri, ha la sensazione di poter fare tutto quello che gli aggrada, una tentazione cui, riconosciamolo, è difficile resistere. I paesi stranieri hanno sugli italiani un effetto inibitorio. All'estero badiamo a comportarci meglio, a non passare con il rosso, a non gettare cartacce, a non parlare a voce alta. Al contrario, l'Italia sugli stranieri ha l'effetto di allentare tutti i freni inibitori, fino a farli cadere. Molti turisti e molti immigrati usano i centri storici delle nostre città come urinatoi a cielo aperto, comprano e vendono droga sotto gli occhi di tutti, si comportano in modo aggressivo verso i passanti, in particolare nei confronti delle donne. Ma il fenomeno non riguarda soltanto il disagio sociale, provoca conseguenze ben più gravi ai piani alti dell'economia. L'Italia è il paese dove le multinazionali tedesche possono lasciare che gli operai brucino vivi, dove gli industriali svizzeri dell'Eternit vedono cadere condanne e risarcimenti. Anche qui la sensazione è che il male sia destinato a restare impunito e che la vittima sia indifesa. Il senso di ingiustizia e di precarietà esistenziale, la paura, la rabbia, sono il carburante della xenofobia, del razzismo, della violenza. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'editoriale di Aldo Cazzullo, Il male impunito, dal Magazine 7 del 28 novembre. Letture di Radio 24. Nel novembre del 1999, i leader della sinistra liberale, guidati da Tony Blair e Bill Clinton, si erano riuniti a Firenze per lanciare il movimento della Terza Via, che avrebbe dovuto rappresentare un'alternativa al liberalismo capitalista e alla socialdemocrazia. A distanza di 15 anni, Blair e Clinton ripercorrono in esclusiva per il magazine Il il ricordo di quell'esperienza, confrontandola con le prossime sfide e con le nuove prospettive rappresentate dalla sinistra di Matteo Renzi e Manuel Valls. Ecco come l'ex primo ministro inglese spiega come dagli errori della sinistra avrebbe potuto nascere la proposta di un nuovo movimento politico. Poco prima dell'avvento del nuovo secolo, divenne ben chiaro che il vecchio approccio alla politica doveva cambiare. Il XX secolo aveva rivelato come senza la capacità da parte dello Stato di garantire alcune protezioni fondamentali e di provvedere a servizi base per i cittadini, non potesse affermarsi una società più giusta, in cui le opportunità fossero alla portata di tutti. Così abbiamo dovuto tassare in modo equo e spendere per perseguire la giustizia sociale. E abbiamo costruito le basi del welfare state. Tuttavia, con il passare del tempo, poiché le strutture di collective power si erano accresciute e le persone comuni erano diventate contribuenti, divenne evidente come lo Stato potesse anche abusare del potere, potesse spendere in modo poco avveduto e potesse rivelarsi un intreccio di interessi particolari di ostacolo al necessario cambiamento. La stessa cosa accade con le controparti sociali dello Stato. I sindacati, Da qui nasce il concetto di terza via, che era ed è in sostanza un progetto modernizzatore. È un progetto che affonda tutte le sue radici nella tradizione politica progressista e non in quella conservatrice, ma accetta come un dato di fatto la necessità di riformare il mondo in cui operano i poteri collettivi e quindi anche il potere dello Stato, per riuscire a raggiungere gli obiettivi originari delle politiche progressiste. Dobbiamo essere sicuri che lo Stato, se spende, spenda in modo saggio, che i servizi siano erogati a vantaggio di chi dipende da essi, che temi come la criminalità, considerati una ridotta della destra, siano presi seriamente dalla sinistra. E dobbiamo essere alfieri di un settore privato competitivo e imprenditoriale, così come del movimento sindacale. Oggi la terza via è più opportuna che mai. Possiamo vederlo nel dibattito europeo. La destra vuole austerità, la vecchia sinistra ha resistenze verso le necessarie riforme strutturali. Il risultato è che ci troviamo pericolosamente prossimi alla stagnazione, con il rischio di ricadute negative che potrebbero annientare le tradizionali e ragionevoli forze politiche europee. In realtà è evidente che abbiamo bisogno di politiche per la crescita combinate a riforme strutturali. I leader politici che tentano di sviluppare cambiamenti di questo tipo devono sapere che le loro economie possono crescere. Le politiche di finanza pubblica devono incoraggiare questo processo e non affidare tutto a uno stimolo monetario che può tenere l'euro in vita, ma non può di per sé rendere prospera l'economia dell'eurozona. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Tony Blair, Il coraggio di governare, dal numero di dicembre del magazine Il. Nel marzo 2004, alla vigilia delle elezioni politiche, la Spagna subì uno dei più violenti attentati terroristici del dopoguerra. Anche se i risultati elettorali che portarono al governo la sinistra di Zapatero non sono direttamente riconducibili all'attentato, quello che è certo è che i fondamentalisti islamici ottennero quello che avevano chiesto, ovvero il ritiro immediato delle truppe spagnole dall'Iraq. 10 anni dopo, la Spagna torna a mostrare un atteggiamento deferente nei confronti dell'Islam, con il Real Madrid che decide di togliere la croce dal suo logo. Ma questa volta ci sono di mezzo i soldi e, come scrive Roberto Tottoli in un corsivo sul Corriere della Sera, è tutta l'Europa che subisce il fascino dei capitali islamici, anche quando arrivano da paesi fondamentalisti che sono invisi perfino ai musulmani che vivono in Occidente. Per non offendere la sensibilità di un nuovo sponsor di Abu Dhabi, il Real Madrid avrebbe rimosso una croce dal suo logo, vecchio di quasi un secolo. La notizia è rimbalzata nei giorni scorsi dai giornali spagnoli in tutto il mondo, con qualche commento sferzante. Eppure la grande società di calcio non agisce diversamente dai mercati finanziari europei o dalle amministrazioni di un'Europa disperata a caccia di soldi. La situazione è paradossale. Mentre musulmani immigrati, veli e minareti agitano popolazioni europee e solleticano vecchie e nuove xenofobie, nulla sembra turbare la fame dei capitali provenienti dal Golfo Persico o dall'estremo oriente musulmano. I finanziamenti da Dubai o dal Qatar rivaleggiano con gli investimenti malesi nei quartieri londinesi, trovando strade aperte e inviti servizievoli. E peggio ancora, poco o nulla conta che spesso il denaro provenga da quei paesi in prima fila a finanziare l'Islam più tradizionalista, privi di democrazia e invisi a molti dei musulmani che vivono in Occidente. La spregiudicatezza della ricerca di capitali si salda a un relativismo ancora più cinico. Si finge di non rendersi conto di quanto i capitali musulmani possano condizionare il futuro delle società europee. Mettere qualche briglia a un mercato senza alcun principio etico può essere utile in certi settori finanziari, non c'è dubbio. Tuttavia, ciò rischia di avvenire con il corollario discutibile di cambiare la propria tradizione per non urtare una sensibilità etica e religiosa dettata da paesi islamici, di cui si condivide ben poco, se non il denaro di cui si ha bisogno. Oggi è una piccola croce su un logo, ma domani potrebbero essere tradizioni alimentari o costumi, oppure il tessuto urbano di un quartiere ricostruito, pensato per non urtare gli agognati investitori stranieri. Il rispetto è la chiave della convivenza, ma non è certo rispetto di sé stravolgere la propria storia per ragioni di marketing. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Roberto Tottoli, I rischi sottovalutati della finanza islamica, dal Corriere della Sera del 3 dicembre. Tra i numerosi casi di bambini sottratti ingiustamente ai genitori da parte dei tribunali dei minori e dei servizi sociali, uno dei più vergognosi è probabilmente quello che riguarda la famiglia Morselli. Nel 1997, una bambina della provincia di Modena, che era già stata affidata ai servizi sociali perché proveniente da famiglia disagiata, aveva iniziato a parlare di abusi che coinvolgevano un prete locale, Don Giorgio Govoni. Gli interrogatori fatti da psicologi, assistenti sociali e magistrati avvenivano in modo fuorviante, con dati assunti in modo pretestuoso allo scopo di arrivare a una conclusione prestabilita, come spiegato dettagliatamente nella ricostruzione della vicenda fatta dal Centro di Documentazione Falsi e Abusi sui Minori. Ben presto si era arrivati a parlare di riti satanici, di bambini portati ogni notte al cimitero per essere violentati da un gruppo di adulti, poi decapitati e infine gettati nel fiume, anche se non c'è mai stata nessuna prova e ovviamente nessun cadavere di bambino decapitato fu mai trovato. Nel corso degli anni anche altri 4 figli della coppia furono sottratti e dati in affidamento. L'assoluzione definitiva avverrà soltanto nel 2010, confermata da una sentenza della Cassazione. Nel frattempo, Don Giorgio è stato stroncato da un infarto per il dolore e lo scorso anno è scomparso anche il padre della bambina. Ora, l'avvocato che da sempre difende i coniugi ha annunciato di voler chiedere allo Stato il risarcimento per il danno esistenziale, anche se niente potrà ripagare una madre che si è vista ingiustamente sottrarre i figli per 16 anni. Ecco alcuni passaggi di un articolo di Stefano Zurlo, pubblicato la settimana scorsa sul Giornale, che racconta l'epilogo di questa assurda vicenda. C'è una mamma che ha perso 4 figli, 4 bambini, la mattina del 12 novembre 1998. Oggi, che potrebbe riaverli, è ormai tardi, troppo tardi. Il disastro giudiziario e umano è compiuto. Lorena Morselli era innocente. La Cassazione chiude definitivamente una vicenda terribile andata avanti per 16 lunghissimi anni. 16 anni in cui ai 4 ragazzini era stato spiegato che i genitori, Lorena e il marito Delfino, morto d'infarto nell'estate del 2013, erano una coppia di pedofili. I bambini col tempo avevano puntato il dito contro mamma e papà, aggravando, se possibile, le accuse. Non era servita la mobilitazione di mezzo paese a favore di quei due genitori miti e premurosi. Gran lavoratore lui, impegnata nel sociale e in chiesa lei. Purtroppo è andata come è andata, con un andamento che si potrebbe definire scandaloso se l'aggettivo non fosse ormai logoro e inutilizzabile. In primo grado, nel 2002, su Lorena e Delfino cala una condanna pesantissima. 12 anni a testa. Loro chiedono giustizia, vogliono essere processati al più presto, ma l'appello non arriva mai. Intanto si sono trasferiti per paura di nuove incursioni della magistratura in Provenza. Qui nasce Stefano, il quinto figlio che non ha mai conosciuto i fratelli. La storia della pedofilia nella bassa si ridimensiona e anzi in parte si sgonfia. Don Giorgio Govoni, il prete travolto dall'inchiesta, muore nello studio del suo avvocato alla vigilia della sentenza che gli restituirà postumo l'onore. Delle fantomatiche messe nere non c'è traccia, come pure dei bambini che sarebbero morti nel corso di spaventose cerimonie e tenebrosi sacrifici nel segno di Satana. Lorena si dispera e piange, arrivando a dire parole durissime, di pietra. I genitori che perdono un figlio hanno almeno una tomba su cui piangerlo. Io nemmeno quella. Non so dove siano, se mando una lettera mi torna indietro, se spedisco un regalo per il compleanno o il Natale, me lo restituiscono. E poi ci tormentano con queste contestazioni devastanti. La soluzione arriva finalmente il 24 settembre 2010. I 4 bambini sono diventati o stanno diventando uomini e donne. Ormai sono quasi tutti maggiorenni e il legame con la famiglia d'origine non esiste più. È stato cancellato dai verbali, dagli interrogatori, dal clima avvelenato e dall'assoluta estraneità che si è creata ed è stata mantenuta nel tempo. «Apprezzo il verdetto», dice Lorena Morselli al Giornale, «ma alla mia infelicità di madre non c'è più alcun rimedio. Sarà felice Delfino, che ormai è in cielo, e poi c'è Stefano che vorrebbe incontrare i fratelli. Io ci ho provato, ma loro non mi vogliono vedere. Li ho visti una volta sola in un'aula di tribunale e si sono girati dall'altra parte. È una situazione che non si può descrivere, perché io sono rimasta a quella mattina di novembre, la colazione, i biscotti, le cartelle da preparare prima di andare a scuola. L'avvocato Cristina Tassi, che ha sempre difeso i coniugi, ora pensa al passo successivo. Il danno esistenziale subito dalla signora Morselli è quasi incalcolabile. Presto faremo causa allo Stato. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Stefano Zurlo strappati ai figli per 16 anni da una giustizia impazzita, dal giornale del 4 dicembre.